Gli speciali di Radio 24. Adozioni. La paralisi del governo sulle spalle delle famiglie. Di Valentina Furlanetto. Il Partito Democratico ha detto in modo chiaro che la proposta che presenterà sulle adozioni internazionali sarà una proposta complessiva di riordino. Così il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, a febbraio. In attesa di questa proposta complessiva siamo andati a vedere però come stanno le cose. Mettiamo il caso dei bambini in Congo, ve lo ricordate? Sempre la ministra Boschi li aveva riportati in Italia e si era fatta fare le treccine in aereo. Finalmente dopo 8 lunghissimi mesi questi bambini adottati, bambini con voi adottati, e gli italiani possono abbracciare i loro genitori. Ministro! Ministro! Ecco, vi vedete in lontananza anche il ministro. Sono passati 2 anni, ma dopo l'arrivo di quei 31 bambini si sono spente le telecamere e dei 130 rimasti lì nessuno ha saputo più nulla. Così siamo stati ben felici quando, pochi giorni fa, un comunicato annunciava la chiusura della lunga e sofferta vicenda. Peccato che i genitori stiano ancora aspettando. Uno di loro, che parla a nome del Comitato Genitori Adottivi nella Repubblica Democratica del Congo, è Lorenzo Passeri. Come si chiamano i suoi bambini? Il maschietto Juslen e la femminuccia Germaine. Sa, vederli crescere via Skype non è una bella cosa. Io ho preso un bambino di 6 anni e mezzo, oggi ne ha 9. La bambina aveva 3 anni e mezzo, oggi ne ha 7. Quindi il voi 13... avete, diciamo, ufficialmente 2 figli, un maschietto e una femminuccia? Assolutamente. Dal 2013? Il mio cognome, dal 13 settembre del 2013. Da lì noi, per quanto ci riguarda, il silenzio più totale. Non abbiamo più avuto nessuna tipologia di informazioni, nessun tipo di contatto, nessun tipo di aiuto o supporto. A richiesta di molti genitori, fra i quali io personalmente, di recarsi in Congo per andare a trovare questi bambini che noi nel frattempo vedevamo crescere via Skype. Le risposte della CAI erano: non vi potete recare in Congo perché innanzitutto non vi rilascerebbero i visti, cosa assolutamente non vera, perché l'ambasciata congolese in Italia rilascia tranquillamente i visti. Quindi non potevate andare a trovare i vostri figli? Non potevamo andare per l'autorità italiana. Ma quando pochi giorni fa, quindi è uscita questa notizia, si sblocca la vicenda di tutti i bambini del Congo, non si è sbloccata del tutto? Ci è giunta comunicazione da parte della Commissione Adozioni Internazionali, tra l'altro con una telefonata giunta all'1:15 di notte. Da quella telefonata lì, che risale oramai a 15 giorni fa, non abbiamo più alcuna informazione. Quindi oggi non solo ci troviamo ad aver aspettato oltre 900 giorni per il rientro di questi bambini che dal 2013 sono effettivamente nostri, cioè hanno il nostro cognome, insomma, senza che nulla sia stato fatto, comunque poco sia stato fatto. Guarda. E ad oggi non abbiamo informazioni su quelle che sono le pratiche burocratiche che stanno svolgendo lì in Congo per far rientrare questi bambini. Io posso capire che a un certo punto non si fa in tempo a far tornare questi bambini per Pasqua, me ne posso fare una ragione. Dateci oggi, dopo che il Congo ha sbloccato, almeno un riferimento temporale per dire fra 30 giorni, 40 giorni, 50 giorni li avrete qui. Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Molti hanno le camerette vuote da 2 anni. Quante famiglie sono nella sua situazione? Centinaio di famiglie circa. Indicativamente sono un 130 bambini che devono tornare in Italia. Ci sono camerette, ci sono giochi, ci sono parchi, ci sono partite di calcio, ci sono tutte quelle attività che uno vorrebbe fare con quei bambini, ma che già oggi non può fare più, perché, o in parte non può fare più perché quei bambini sono già cresciuti. C'è il problema scolastico. Noi abbiamo preso dei bambini in età prescolare. Adesso mio figlio ha 9 anni, l'anno prossimo dovrà iscriversi alla quinta elementare con tutti i problemi di adattamento. Cosa le dicono i suoi figli quando vi sentite via Skype? Quando vieni a prenderci, questo dicono. Papà, quando vieni a prenderci? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás. A vigilare sulle adozioni dei bambini stranieri è la Commissione per le adozioni internazionali, la CAI, nata per garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'AIA sulla tutela dei minori e per cooperare con i paesi stranieri. La CAI però è accusata di inattività. Ad esempio, non si riunisce da 2 anni, dal giugno 2014, ed è praticamente impossibile parlare con la sua presidente. Come conseguenza, anche altre adozioni, non solo quelle del Congo, sono bloccate. È accaduto ad esempio a un'aspirante mamma adottiva, Elena Agnelli. Noi avevamo scelto all'epoca il Kenya. È successo che in quel periodo il nostro ente stava aspettando il riaccreditamento sul paese, perché gli enti, se non vengono riaccreditati sul paese, non possono operare. Naturalmente questa cosa creava una problematica a tutte le coppie italiane che erano sul paese, perché se l'ente appunto non è riaccreditato, noi coppie non possiamo andare avanti con l'adozione. Abbiamo cominciato a tentare di contattare la Commissione Adozioni Internazionali, abbiamo fatto diverse telefonate, ma nessuno ci dava un aiuto. E io le dico che ho scritto nell'arco di un mese e mezzo, circa una 40 di mail, senza mai avere da nessuno una risposta. Poi il Kenya decise di chiudere e noi ci ritrovammo a febbraio del 2015 con una moratoria da parte del governo kenyota che decideva di chiudere alle adozioni internazionali. Ma noi questo non l'abbiamo mai saputo dalla Commissione, noi non siamo mai più stati contattati. Se la Commissione fosse un pochino più presente presso le autorità centrali dei vari paesi stranieri, evidentemente forse tanti problemi, tanti rallentamenti non ci sarebbero. Cambiare paese che cosa significa, oltre a un esborso di denaro? Significa ricominciare a fare tutti i documenti da capo. Lei quanto ha speso finora, lei e suo marito? 5.000 per il momento su quello che poi è stato un fallimento, e adesso noi siamo indirizzati su un altro paese, quindi chiaramente ulteriori spese sul nuovo paese. Adesso voi siete in attesa per un altro paese? Sì, noi adesso abbiamo poi scelto, confrontandoci naturalmente sempre con il nostro ente, Haiti. Per Haiti, per questa nuova adozione, quanti soldi, quanti migliaia di euro dovrete spendere? Sicuramente partiremo da una base di 15.000 euro. Più i 5.000 euro che avete già speso per il Kenya? Più naturalmente poi i viaggi, la permanenza e quant'altro, perché non dimentichiamoci che anche tutto questo ha un costo, i viaggi aerei, la permanenza. Quindi alla fine 25-30.000 euro? Vado anche sui 30.000. Melita Cavallo è stata un'apprezzata presidente della Commissione per le adozioni internazionali dal 2001 al 2004. E fino a dicembre 2015 è stata presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Da questa sua esperienza ha pubblicato per La Terza Si fa presto a dire famiglia. Come presidente di tribunale non sono mai riuscita a comunicare con con la CAI per i problemi che un tribunale può avere con le coppie. Avevamo una coppia che aveva già avuto da noi una bambina e manteneva in piedi un'adozione su un paese africano. E volevamo chiarezza per dire che non poteva assolutamente adottare quella bambina, avendo già avuto un'adozione in corso da noi. E non ho avuto risposta, e poi alla fine credo che questa coppia abbia adottato contemporaneamente una bambina, tra l'altro abbastanza più grande di quella che noi avevamo loro affidata. Quindi una situazione che mi è, come dire, che mi è sembrata un po' anomala, quella di non interloquire con un presidente che chiede chiarezza su certo tipo, su un'adozione internazionale. Non è accaduto solo a me. In Italia ci sono ben 62 enti autorizzati a lavorare sulle adozioni internazionali, contro i 34 della Francia e i 12 della Germania. È un fattore positivo o negativo questo affollamento di enti? È negativo, perché tanti paesi in un ente non fanno altro che spartirsi i bambini, diciamo aumentano solo i costi, perché i costi degli enti più o meno sono fissi, e se ci sono più enti diciamo aumentano soltanto i costi. I costi per adottare all'estero possono arrivare a cifre quindi che superano i 30.000 euro, come abbiamo sentito, difficilmente affrontabili da famiglie di basso reddito. Non è una discriminazione? Sicuramente. Sempre proposto che i costi in Italia vengono, diciamo, sostenuti dall'ente territoriale, dall'Italia, perché come per le coppie che adottano in Italia non c'è alcun costo, e così deve essere anche per le coppie che vanno all'estero, cioè in Italia non ci sono costi e l'unico costo è quello richiesto dal paese straniero. Abbiamo chiesto a Marco Griffini, presidente dell'AIBI, uno dei più importanti enti per le adozioni internazionali, che cosa comporta in pratica la stasi e la paralisi della commissione. È come se lei avesse una macchina dove noi enti autorizzati siamo le ruote, e le portiere si aprono, entrano le famiglie, ma il motore, che è la commissione adozioni internazionali, non funziona. Quindi questa macchina non va, va avanti a spinta, e purtroppo sa, in questa commissione che non si riunisce da 2 anni, non prende provvedimenti, non controlla gli enti, ma soprattutto non apre paesi nuovi, non dà esecuzione agli accordi bilaterali, non risponde alle richieste delle famiglie e degli enti, per cui è veramente una situazione imbarazzante, nel senso che non si capisce per quale motivo si voglia mandare a mare l'adozione internazionale. In effetti ormai le famiglie sanno da 2 anni a questa parte che c'è una paralisi, e i dati che hanno pubblicato fra l'altro la Regione Toscana settimana scorsa, perché fra l'altro siamo anche in assenza di dati da 2 anni, per cui effettivamente c'è una grande nebbia, una grande nebulosa sull'adozione internazionale. Dicevo, i dati pubblicati dalla Regione Toscana proprio settimana scorsa danno un crollo del 25%, del 15% sul 14%, quindi è una situazione a dire poco disastrosa. Non si capisce perché l'adozione internazionale, che è sempre stata il fiore all'occhiello dell'Italia, il primo paese in proporzione, il primo nel mondo, perché se ben vero che gli Stati Uniti ne facevano 9.000 di adozioni internazionali all'anno, ma noi eravamo 4.000 all'anno, non si capisce perché l'attuale governo abbia deciso a questo punto di far finire l'adozione internazionale. In questo mese, per esempio, il Perù, che ha gli istituti pieni, ha chiesto a noi enti autorizzati, almeno quelli che sono autorizzati dal loro paese, di raddoppiare addirittura la disponibilità delle coppie. Noi potevamo presentare 10 coppie per volta, ci hanno pregato di raddoppiare, di portarne 20 per volta. La Bolivia, dopo 7 anni, ha aperto le adozioni internazionali, perché anche qua gli orfanotrofi che scoppiano dei bambini. La Cambogia, il Nepal, ci stanno chiedendo da anni di dare applicazione agli accordi bilaterali che sono bloccati. E voi non potete farlo senza il via libera della CAI? Guardi, non possiamo farlo, per esempio noi come AIBI, solamente noi, si figuri quindi che cos'è il comparto degli altri enti, noi solamente come AIBI abbiamo chiesto in questi ultimi 2 anni di aprire 15 paesi nuovi, la maggior parte dei paesi africani che ci hanno chiesto proprio di poter iniziare la collaborazione sul fronte delle adozioni, ma non possiamo farlo perché giustamente quando noi dobbiamo aprire un paese dobbiamo essere sia autorizzati dallo Stato italiano e sia accreditati dal paese di origine. Ecco, tutto questo è bloccato e la domanda è, non si capisce perché. Un altro importante ente è il CHAI. La presidente è Paola Crestani. Tanto per ricordare, in questo momento noi abbiamo delle famiglie in paesi, ad esempio il Burkina Faso, che hanno dei problemi di sicurezza per gli attentati che ci sono stati tempo fa e quindi avremmo bisogno a volte di metterci in contatto con la nostra autorità centrale per delle richieste in merito a queste cose. Con l'autorità centrale non si riesce a parlare. Chiamando, penso se avete provato, insomma, chiamando in commissione non si riesce mai a trovare nessuno. Il fatto che la commissione non si riunisca ha poi delle conseguenze, ad esempio non vengono date autorizzazioni per nuovi paesi. Altra cosa, non abbiamo risposte rispetto a dei bandi di finanziamento di progetti di sussidiarietà che sono scaduti ancora nel 2014. Ci sono delle affermazioni della Presidente della Commissione Adozioni Internazionali della Monica che sono anche abbastanza forti. In occasioni pubbliche ha detto: in Italia esistono enti che propongono adozioni internazionali ma che lo fanno comprando i bambini, una prassi che va estirpata. Quindi ha denunciato pubblicamente dei casi ma poi non ha fatto nulla. Ha denunciato pubblicamente, ma direi genericamente, nel senso che io ritengo che un'accusa generica di questo tipo sia molto grave, perché mette tutti, diciamo, nella stessa situazione e mette le famiglie che si avvicinano all'adozione in grande difficoltà. Voglio dire, come faccio io, famiglia che voglio adottare, a sapere se l'ente di cui sto prendendo informazioni è un ente che si comporta bene oppure no, quando l'autorità centrale ha detto che ci sono degli enti che si comportano male, ma nulla più. Perché la CAI teoricamente quello dovrebbe fare, anche fermare casi in cui ci siano delle opacità. Assolutamente deve per legge controllare l'operato di tutti gli enti, tra l'altro con scadenza biennale, e fermare assolutamente quelli dove insomma scontra delle opacità. E non lo sta facendo? Allora, le dichiarazioni che ci sono che da quasi 2 anni ci sono degli enti sotto inchiesta, ma nessuno mai ha saputo come e se questa inchiesta è andata a finire. E quindi questo è molto... Quindi per i genitori è anche rischioso? Assolutamente, assolutamente. E lo dico anche come presidente di un ente autorizzato, insomma, non mi fa piacere essere messa in una lista che non so qual è, se è quella di quelli che lavorano bene o quella di quelli che non lavorano bene. Anche perché, diciamolo Paola, il CHAI di cui tu sei presidente con alcuni paesi proprio non lavora, proprio per evitare opacità che sappiamo esserci con alcuni paesi con i quali magari non c'è un accordo internazionale. Esatto, l'attenzione è sempre per prima cosa di lavorare solo in paesi dove ci sono le condizioni per poterlo fare in modo corretto. Quando parliamo di malpratiche parliamo di bambini venduti. Esatto, esatto. Anche per questa ragione, ma non solo per questo, l'assenza della CAI, la Commissione Adozioni Internazionali, è allarmante. Se si guarda all'adozione nazionale, invece, il grande scandalo è che non si conosce neppure il numero dei minori in stato di abbandono in Italia. Si conosce il numero dei cani abbandonati, censiti nel sito del Ministero della Salute, ma non quello dei bambini abbandonati. Perché a 16 anni dalla legge che aveva istituito una banca dati per contarli, la banca dati non è ancora attiva. Marco Griffini. sono stati dati soldi, fra l'altro, al Ministero, al Dipartimento di Giustizia Minorile, che è titolare della materia, 800.000 euro, perché era una banca dati che nella sua organizzazione è abbastanza semplice, perché si tratta di mettere in rete i 29 tribunali di minorenni italiani, no? È come se lei avesse, che ne so, 29 terminali, 29 computer, le mette in rete, quindi anche una. Quindi c'è qualcosa che effettivamente non funziona. C'è poi la questione delle adozioni fallite. Ogni 3 giorni un bambino adottato viene infatti restituito allo Stato. Ogni anno 100 famiglie si arrendono e rinunciano all'affidamento dei minori. Personalmente, Melita Cavallo, in qualità di presidente del Tribunale dei Minori di Roma, ha dovuto gestire molti di questi casi. Si tratta soprattutto di bambini anche arrivati abbastanza piccoli, 5-6 anni, nell'età della, diciamo, verso i 12-13 anni, c'è questa sorta di ribellione alla famiglia, comincia una conflittualità che esplode anche in atti di violenza, ecco, del bambino verso i genitori, dei genitori verso il bambino e il ragazzino, e a un certo punto si fanno presenti al tribunale, qualcuno molto ingenuamente chiede se è possibile revocare l'adozione, ma naturalmente l'adozione è per sempre, quel figlio è per sempre tuo figlio, e noi non abbiamo altra soluzione che, non riuscendo a far superare il conflitto, a collocare il ragazzino in una struttura nella speranza che si possa recuperare il ruolo dei genitori al bambino. E ove non ci riusciamo, perché è estremamente difficile, in quel caso tentiamo un nuovo affidamento. Se questo non è proprio possibile, il bambino, il ragazzino purtroppo resterà in questa casa famiglia, aiutato, diciamo, anche psicologicamente. Però il fallimento c'è. Si ricorda qualche caso che ha seguito come presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, di fallimento? Ne ho seguito e sostenuto più di uno, e questi ragazzi, si capisce, li ricordo tutti, ma la loro storia è molto simile alla storia dell'altro ragazzino, cioè il bambino, i genitori dicono: in effetti non l'abbiamo mai sentito nostro, in effetti non si è mai sentito nostro figlio, ha sempre parlato poco con noi, a scuola non andava bene, non gli andava bene nulla, cioè insomma non si è creata la relazione di attaccamento, sono sempre stati due dei soggetti estranei in casa, insomma è questo, perché se poi si è creato, ecco, io da ultimo ho avuto un caso che forse si risolve positivamente, il padre era un padre che voleva aiutare il figlio, si rendeva conto delle sue difficoltà e ha chiesto aiuto. Allora in questo caso siamo riusciti ad aiutare questo ragazzo, che aveva un po' il mito della divisa, del carabiniere, insomma voleva fare il carabiniere, voleva fare il poliziotto, e l'abbiamo sistemato presso Capitano Ultimo, una struttura molto positiva che riesce ad agganciare i ragazzi. Il ragazzo ha ricominciato a studiare, ha ricominciato ad andare a casa nel fine settimana, e probabilmente questo caso si risolve, però in genere è molto difficile, molto difficile. E di casi così, di casi non risolti, diciamo nella permanenza a Roma di poco più di 8 anni, ho visto praticamente sicuramente 14-15 fallimenti. Restano insomma molte domande. Avremmo voluto porle ai 23 membri della CAI, stipendiati da 2 anni senza che si siano mai riuniti, ma non ci hanno mai risposto. Siete pregati di attendere per non perdere la priorità acquisita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.